il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si chiama Job in Country, ovvero lavorare in campagna, è il portale internet per la ricerca di occupazione proposto da Coldiretti Nazionali e attivato ora anche per il Veneto. Uno strumento in più in un periodo in cui il lavoro è uno dei grandi problemi, soprattutto per i giovani, ma anche in un periodo di grande ritorno di interesse verso la terra e l'agricoltura. Ecco, per saperne di più ne parliamo con Alberto Bertin dell'Ufficio Giuridico e del Lavoro di Coldiretti Veneto. Benvenuto Alberto. Buongiorno, grazie a lei. Buongiorno, ecco, questo portale che cos'è e qual è un po' lo scopo di questo Job in Country? Ma il portale è uno strumento di per sé molto semplice e che vuole essere la risposta di Coldiretti a una risposta di tipo informatico, una di rete, per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro nel settore dell'agricoltura, cosa che fino a poco tempo fa mancava. Avevamo tanti portali di questo tipo, ma specifico per l'agricoltura fino ad oggi mancava. Come funziona concretamente questo portale? Uno può entrare, ci si iscrive, dà dei dati, trova delle offerte di lavoro? Ma guarda, il portale di per sé è pensato in modo semplice, nel senso che chi intende, chi ha voglia di lavorare o cerca lavoro, si iscrive, c'è la sezione apposita cerco lavoro, si registra al portale generando ovviamente delle credenziali di accesso e poi il sistema è congeniato, nel senso che inserirà i suoi dati, soprattutto il curriculum, che diventerà una base di informazioni molto importante per l'impresa che cerca il lavoratore, e la stessa cosa farà l'impresa che cerca lavoro, si iscriverà anche l'impresa ovviamente declinando che tipo di impresa è e cosa cerca. Quindi un sistema molto semplice, ma che consente al lavoratore da una parte, all'impresa dall'altra, attraverso, e questo lo sottolineo, l'intervento di Coldiretti, di mettere in contatto le due figure, il lavoratore da una parte e l'impresa, in modo che in Coldiretti si possa arrivare a una conclusione di un contratto e quindi fornire all'impresa il lavoratore e fornire soprattutto al lavoratore un impiego in agricoltura, visto che appunto il periodo che stiamo vivendo è un periodo dove l'agricoltura sta avendo, per fortuna, dal punto di vista anche delle assunzioni, dei rapporti di lavoro, segnali positivi rispetto ad altri settori. Ecco, ma le imprese agricole fanno fatica a trovare persone, visto che sono loro stesse, a quanto capisco, che si mettono alla ricerca attraverso questo portale? Beh, il portale è uno strumento in più che noi diamo alle imprese, che è anche un segnale di stare al passo con i tempi. Ormai il sistema di ricerca e di offerte di lavoro è un sistema che deve viaggiare, noi pensiamo, anche su base informatica, di rete. I classici canali non di rete, quelli fisici, dove l'impresa va presso i nostri sportelli, i nostri uffici a chiedere una risorsa, rimangono, però ovviamente la Coldiretti, che vuole rimanere così aggiornata anche dal punto di vista informatico, ha cercato di dare appunto alle imprese questo nuovo strumento. Il lavoro in agricoltura c'è, nel senso che le imprese offrono lavoro, certamente rimane pur sempre un lavoro che richiede tempo, richiede anche un certo grado di difficoltà, il lavoro in agricoltura non è così semplice, e questo vuole essere appunto uno strumento per cercare di dare alle imprese in modo snello e veloce la possibilità di avere la risorsa e il lavoratore in tempi veloci, in tempi brevi, e anche noi diciamo un personale che può essere anche altamente qualificato, perché appunto il portale è stato pensato sia per fornire all'impresa figure professionali così più semplici dal punto di vista della qualifica, ma anche figure professionali di alto livello, come possono essere portatori o altre figure che richiedono quindi una certa esperienza e che magari spesse volte proprio per queste figure non c'è la possibilità di recuperarle se non appunto in tempi molto lunghi. Ecco. Ecco, vedevo sul portale una testimonianza di un ragazzo che diceva: così riesco ad arrivare a più aziende, mentre prima era difficile far arrivare i curriculum anche o andare di persona in campagna, mentre questo è un metodo anche per riuscire ad arrivare più velocemente ad un maggior numero di imprese. Assolutamente, ma il discorso che dicevo prima, la rete ormai è lo strumento, sarà sempre più lo strumento attraverso il quale passeranno ovviamente le offerte, le domande di lavoro. Tra l'altro noi, come potrà vedere anche dal portale, stiamo immaginando, e di prossima uscita, proprio una specifica applicazione per il smartphone da installare nel proprio telefonino, quindi sia il lavoratore ma anche l'impresa, una volta che verrà rilasciata l'autorizzazione dalla software house, potrà installare nel proprio telefonino l'applicazione e da lì controllare senza agganciarsi al computer, ma semplicemente controllando il telefonino, se ci sono offerte di lavoro e visionare anche i curriculum, che ripeto costituiranno una base di informazioni indispensabili, perché nel mondo dell'informazione, no, si viaggia con informazioni generiche, mentre le imprese vogliono proprio sapere che tipo di mansioni e che lavoro e che tipo di esperienza ha la persona che si vuole assumere. Ecco, torniamo tra poco magari proprio su questo argomento, su quali sono i lavori che più vengono ricercati in agricoltura. A tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del portale Job in Country con Alberto Bertin dell'ufficio giuridico del lavoro di Coldiretti Veneto. Stavamo per dire prima quali sono i lavori maggiormente richiesti in agricoltura. Ma guardi, ovviamente si va dalle esperienze molto, esperienze nel senso dalle professionalità molto semplici, dalla raccolta ovviamente della frutta, la verdura, soprattutto dall'inizio maggio fino a settembre, la vendemmia, ma ci sono anche figure professionali qualificate che richiedono anche un certo tipo di esperienza. Ovviamente in questo periodo vediamo che la raccolta della frutta e la verdura e poi la vendemmia sono le attività maggiormente richieste e tra l'altro ecco il portale dà anche la possibilità a chi cerca lavoro di inserirsi in una apposita sezione, è quella del lavoro occasionale accessorio o detto anche comunemente con i voucher, così da, come dire, da fornire all'impresa la possibilità di avere in modo veloce e queste figure professionali che, ripeto, sono non hanno magari un'alta professionalità, ma che l'impresa chiede per periodi brevi, come potrebbe essere quello da maggio fino a settembre, o solo fino a settembre, o fino a settembre per la raccolta dell'uva. Ecco, quindi. Certo, ecco, penso per esempio in questo periodo molti studenti che cercano lavoro stagionale, o comunque anche lavoratori che cercano lavoro stagionale, questo può essere uno strumento per cercare lavoro, non so. Assolutamente sì, ed è infatti il nostro scopo, è quello di dare uno strumento che consenta ai lavoratori di avere un'occasione di lavoro in agricoltura, ma anche alle imprese di velocizzare i tempi di reclutamento, no, del lavoratore e i tempi per poter avere in azienda una figura professionale che consenta all'impresa di poter svolgere la sua attività. Ecco, questo è il senso dello strumento e sottolineo attraverso, e questa è una cosa che ci tengo, attraverso il ruolo fondamentale di Coldiretti, che deve essere comunque soggetto che garantisce l'impresa da un lato e il lavoratore dall'altro, e quello che si va a concludere, che è un contratto regolare di lavoro, sia tecnicamente dal punto di vista formale un vero contratto trasparente nella massima legalità. E questo infatti è il ruolo di Coldiretti all'interno di questo mercato di domanda e offerta di lavoro, di cui appunto Job in Country è uno strumento autorizzato dal Ministero del Lavoro. Ecco, ultima domanda, ovviamente si può trovare lavoro anche fuori regione, cioè non è che un veneto trova attraverso questo sportello lavoro solo in Veneto, uno può anche cercare lavoro in altre zone d'Italia, così come anche, mi pare di aver capito, degli stranieri possono cercare lavoro attraverso questo portale. Assolutamente sì, il portale è un portale nazionale, è suddiviso per regioni e per province, ovviamente il lavoratore si iscriverà dove pensa di poter lavorare e assolutamente anche gli extracomunitari, insomma, se sono in regola con i loro soggiorno, permessi di soggiorno, assolutamente è un portale aperto a tutti che ha valenza su tutto il territorio nazionale senza nessuna preclusione. Possiamo dare l'indirizzo per arrivare a questo Job in Country? Sì, allora l'indirizzo, il portale è raggiungibile in due modi, sia attraverso il portale nazionale che è www.coldiretti.it e in fondo alla pagina c'è proprio la pagina dedicata a Job in Country con l'icona, oppure cercando lavoro.coldiretti.it. C'è un richiamo immediato, quindi si va immediatamente alla pagina di Job in Country e da lì poi si segue il percorso cercando lavoro, cercando collaboratori oppure altre funzioni che chi entrerà potrà facilmente vedere. Va bene, la ringrazio e speriamo che questo strumento sia utile a molte persone, soprattutto in questo periodo in cui di lavoro ce n'è proprio bisogno. Questo noi ce lo auguriamo, grazie a voi per l'ospitalità, grazie. Concludiamo adesso la trasmissione con alcune notizie. Anticipiamo già che si terrà l'Agripolis di Legnaro il 12 settembre, il quarto congresso lattiero caseario organizzato dall'AITEL, l'Associazione Italiana dei Tecnici del Latte, sul tema latte e derivati, ricerca, innovazione e valorizzazione. La giornata sarà articolata in tre sessioni, dedicate una alla produzione e alla qualità del latte, una alla trasformazione e tecnologia lattiero-casearia e un'altra alla valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari. Informazioni sul sito www.aitel-latte.it. C'è tempo fino al 15 luglio per presentare le richieste relative alla misura 123 del programma di sviluppo rurale dedicata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. La misura è destinata alle aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ha come scopo l'ammodernamento e l'innovazione delle filiere produttive e il sostegno della commercializzazione dei prodotti. L'importo stanziato è di 30 milioni di euro. Sempre entro il 15 luglio è stato prorogato il termine per presentare la domanda per beneficiare della misura 121 del programma di sviluppo rurale dedicata all'ammodernamento delle aziende agricole. Tutte queste informazioni si trovano sul portale dell'agricoltura della Regione Veneto www.piave.veneto.it. E infine la vendemmia 2014 sarà anticipata di almeno una settimana rispetto all'anno scorso. La produzione avrà probabilmente un calo generalizzato tra il 5 e il 10%, con punte del 20% per la corvina. Lo stato sanitario delle piante è buono, con un contenimento delle comuni infezioni fungine. Questi sono i dati emersi a Conegliano, dove il mondo vitivinicolo veneto si è riunito nei giorni scorsi per valutare lo stato fitosanitario del vigneto ad inizio dell'estate. Il momento meteorologico particolarmente mite dello scorso inverno e inizio primavera ha fatto germogliare la vite circa 15-20 giorni prima rispetto alla passata stagione. Questo anticipo fa prevedere l'inizio della vendemmia per Pinot Grigio e Chardonnay a ridosso di Ferragosto, nella prima decade di settembre per il Merlot. Anche per questa settimana è tutto, vi ringraziamo di averci ascoltati, ci potete risentire sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.